La ricerca ci mostra una regione in aumento di demografia, soprattutto grazie al saldo migratorio positivo, che è quello che fa tenere sia la popolazione sia il sistema produttivo. Abbiamo una popolazione in Emilia-Romagna che invecchia sempre più celermente, gli anziani aumentano in rapporto alla popolazione giovanile, aumentano in rapporto alla popolazione in età lavorativa e tra la popolazione attiva i lavoratori maturi aumentano molto di più dei lavoratori giovani. Questo ci interroga e pone alcuni grandi temi al centro del rinnovo del patto per il lavoro e per il clima. Primo, lavoro di qualità. Se non c'è lavoro di qualità, non attraiamo le teste e le braccia necessarie a far funzionare il nostro sistema produttivo e non tratteniamo nemmeno i nostri giovani costretti ad anni di precariato e a un eterno noviziato nel mondo del lavoro. Secondo, la casa. Il caro affitti e il caro abitare è un nodo da sciogliere se non vogliamo che i giovani continuino a rimanere in casa con le famiglie, impedendo ogni progettazione di famiglia e di futuro. Terzo, il welfare. Abbiamo bisogno, a fronte di una popolazione che invecchia, di garantire cura, assistenza e invecchiamento attivo e le professionalità che siano in grado di assicurare questi valori. Quarto, il clima. Non solo come elemento di sopravvivenza della nostra specie sul pianeta, ma anche come elemento di attrazione di abitanti, di investimenti e pertanto di produzioni. Però prima si parlava anche dai grafici, si parlava di proiezione della popolazione in avanti nel futuro con livelli di migrazione o senza la migrazione, come ci si può attendere facendo una fotografia da questo momento. Dipende un po' dalla regione, dipende però anche dal governo, dalle politiche dell'Unione Europea. Assolutamente, in questa regione è chiaro che la popolazione straniera o di origine straniera è un elemento fondamentale per la tenuta del sistema produttivo. Se si avverasse uno slogan di facile presa via gli stranieri, non sappiamo quanti punti percentuali di PIL costerebbe a questa regione. C'è bisogno di politiche di integrazione innovative, c'è bisogno di non fare populismo facile, di non ragionare con la pancia, anche perché lo scenario della popolazione autoctona è destinato a un ulteriore invecchiamento. Di qui al 2040 circa, gli anziani saranno quasi un terzo della popolazione regionale. Occorrono anche certamente politiche per la genitorialità, politiche di sostegno alle famiglie, ma ovviamente vanno inserite in un quadro più ampio di programmazione che vede anche la componente di attrazione come una componente fondamentale della nostra economia. Nella popolazione migrante, evidentemente, c'è una quota, 13% è sulla popolazione totale. Se guardiamo alla popolazione in età lavorativa, è ovviamente una percentuale più alta. Se guardiamo i dati del nostro tesseramento, possiamo dire con una certa dose di approssimazione che supera il 20% della popolazione regionale.